Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da Filippo Glorioso, le 12.09.59 secondi in questo momento sulle frequenze di CRM per il radio che si sente e si vede, 101.4 per chi volesse seguirci via etere, in macchina, a casa, in negozio, ovunque voi vi troviate, oppure potete interagire con noi cliccando www.crmpiredio.it e potete seguirci on air oppure su Facebook, scriveteci, insomma possiamo anche lì diventare amici e seguirci sempre con tanta attenzione. Un buongiornissimo a tutti e una, come dire, una buona Pasqua a tutti, perché adesso mancano veramente pochissimi giorni alla Santissima Pasqua. Per cui ci auguriamo, nonostante in un momento terribile che l'Italia sta vivendo sotto tutti i profili, però la speranza, come dice Papa Francesco, questo Papa che già a me piace moltissimo, l'ho detto la volta scorsa, non bisogna perdere la speranza. Certo, di questi tempi non è facile pensare in positivo, vedere il bicchiere sempre pieno e non mezzo pieno e mezzo vuoto, però insomma la speranza è l'ultima a morire. Non c'è di stare allegri, la politica insomma ultimamente ha lasciato veramente molto ma molto a desiderare. C'è un candidato alla presidenza come primo ministro, quindi stiamo parlando di Bersani, il quale ha cercato di sondare tutti i terreni possibili e immaginabili. Non si sa se ha perso del tempo, se è stato inutile o se è stato utile. Sicuramente in un momento di crisi e di costrizione non possiamo permetterci di perdere ancora giorni preziosi. Il Presidente della Repubblica, tra l'altro, ha sempre sostenuto che il Premier deve avere una larghissima maggioranza, che deve farsi un governo forte per rispondere alle esigenze tantissime, tra l'altro, e gravi che ci sono nel nostro Paese, ma soprattutto bisogna far fronte anche all'Europa che ci sta a osservare. L'agenzia Moody's ci ha ancora declassato, per usare un termine tecnico, nel senso che da prima A ci ha portato in prima B, perché comunque dice che non siamo affidabili sotto il profilo del governo, nonostante il dottor Monti si dia ancora da fare, perché è ancora lui a gestire le cose dell'anormale amministrazione prima del passaggio di testimone. A proposito di Mario Monti, ce l'ha col ministro Terzi, anche qui c'è una querela che non si capisce bene dove iniziare, dove finire, di chi è la colpa. In effetti stiamo parlando del caso dei due Marò, che nessun altro Stato, nessun altro governo, anche quello tedesco, lo vedremo, perché sono stati arrestati in India due marinai tedeschi, civili naturalmente, che erano a bordo di una nave mercantile che ha speronato un altro peschereccio, e quindi ci sono stati anche lì dei morti. E notizie di questa mattina, sono stati arrestati quindi due marinai tedeschi. Adesso vediamo la Germania, a differenza della nostra Italia, come si comporterà nei confronti del governo indiano. Certo è che insomma non finiamo mai di far ridere i polli, per così dire. Il nostro è stato sempre la nostra nazione, a parte qualche sporadico momento come quello di Craxi quando si oppose agli americani a Sigonella, quando si trattò di Mussolini che fece fare anticamera ai tedeschi, gli inglesi e i francesi, ma poi gli italiani tutto sommato brava gente, quindi ci si può permettere chiunque a metterci i piedi in faccia, e noi consentiamo che questo accada. Neanche in questo caso il governo è stato coeso. Ieri Monti ha dovuto rispondere alle varie interpellanze parlamentari, ma si è difeso insomma arrampicandosi sugli specchi. Qui poi c'è stato il caso del ministro Terzi. Al mio modesto punto di vista, non conoscendo comunque tutte quante le carte, le motivazioni che hanno spinto Terzi a dare le dimissioni, sicuramente io lo stimo, perché se un ministro si impegna a non far più rientrare i nostri Marò, che giustamente in base ai trattati internazionali debbono subire il giusto processo nella nostra Italia, non si capisce perché il governo poi abbia deciso di mandare i Marò in India. Si dice perché comunque non si poteva rischiare una collisione diplomatica tra i due stati, cui i rapporti diplomatici sono ottimali, e mi si consenta, non sono d'accordo neanche su quello che l'India ha fatto, nel senso di bloccare nella propria dimora il console italiano, proibendo di fatto che lo stesso console potesse uscire dai confini indiani. Io voglio ricordare a futura memoria che quando un aereo americano tranciò dei cavi di una funivia, ci furono dei morti, il pilota americano non venne né arrestato né condannato in Italia, ma per i diritti internazionali venne rispedito in America, dove subì un processo, poi non si seppe più nulla. Ma sta di fatto che così bisogna fare, e il nostro governo io lo immagino forte, che si faccia portare, che porti il rispetto, e che nessun altro si permetta più di mettere i piedi in faccia. Fossi stato io ministro degli interni o presidente della Repubblica Italiana, avrei dato la stessa risposta che ha dato l'India col nostro console, la nostra ambasciata, scusate, a Nuova Delhi. Avrei dato le stesse disposizioni di non lasciare il territorio italiano, ritirando di fatto il passaporto, perché di questo si tratta, all'ambasciatore indiano in Italia. Secondo me bisogna, insomma, la diplomazia va rispettata, e sono sul tavolo, la diplomazia deve avere la parte migliore, però quando ci si scontra sui diritti internazionali, insomma, occhio per occhio, dente per dente. Io mi fermo un attimo, dando la linea alla regia. Al rientro affronteremo ancora altri argomenti e poi avremo anche un ospite. Linea alla regia. Futuro, poche le ombre riflesse su un muro, tutto è già lì a portata di mano, ed una musica vola come un giro di lancette che si sa, sovrapposta insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì, noi siamo quelli che te di rivedere i vecchi films, neanche meno tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì a portata di mano. tutto. E allora seguiteci sempre su CRM Happy Radio, carte e penne, studio Filippo Glorioso. Sono le 12:41 e 48 secondi in questo momento, ci avviamo alla conclusione di questa ennesima puntata, l'appuntamento naturalmente con la replica domenica intorno alle 9:30, e poi chi volesse insomma risentire le repliche può andare su Podcast Repliche cliccando su www.crmperedio.it, se no seguiteci in diretta streaming on air, e siamo lì, insomma ci potete anche vedere se volete. A proposito di borghi, il comune di Monterosso Almo tra i borghi più belli d'Italia, applauso dal coordinatore siciliano a Vienna. Dunque, in una nota il coordinatore dei borghi più belli della Sicilia, il sindaco di Geraci Sicolo, Bartolo Vienna, dà il suo capo caloroso benvenuto nel club dei borghi più belli d'Italia al comune di Monterosso Almo. Al sindaco di Paolo Buscema, ha dichiarato Bartolo Vienna, vanno i complimenti per essere riuscito a ottenere questo importante riconoscimento. L'inserimento del comune di Monterosso Almo arricchisce e rafforza il peso della Sicilia nello scenario nazionale e ci carica di ulteriori responsabilità nell'azione di conservazione e promozione dei nostri borghi e della Sicilia intera, che ora può vantare ben 12 comuni: Brolo, Castelmola, Castiglione di Sicilia, Cefalù, Gangi, Geraci Sicolo, Montalbano e Licona, Novara di Sicilia, San Marco d'Alunzio, Savoca e Sperlinga, inseriti nell'esclusivo club dei borghi più belli d'Italia. Vienna inoltre annuncia che il prossimo 5 aprile alle ore 16 presso la Sala delle Capriate del municipio di Cefalù si terrà una riunione del coordinamento regionale al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività intraprese e di condividere iniziative e progetti in corso. Saranno presenti il direttore dei borghi Umberto Forte e il sindaco di Montalbano e Licona e vicepresidente del club delega per l'Italia meridionale Pippo Simone. Bene, abbiamo un bel po' di comuni dentro questo club che sono i borghi più belli d'Italia, se ne potrebbero aggiungere molti altri, ma comunque lì ci vuole anche una certa volontà politica. Volevo parlarvi per pochi secondi dell'estromissione della non più partecipazione all'assise civica della regione da parte del grandissimo cantautore siciliano di Catania, il dottor Franco Battiato, il quale, come tutti sapete, avete avuto la notizia dai mass media nazionali, è stato estromesso dalla sua carica da parte del presidente Crocetta perché ha usato una frase che a modo di pensare di Franco Battiato è stato travisato, dice, sono parole sue, era diretto anche agli uomini che hanno seduto in questi ultimi 20 anni negli scarni dei palazzi del potere a Roma. Lui dice di essere stato frainteso. La frase ingiuriosa non la voglio dire perché non mi va di dirla, ma tutti la sapete, era rivolta non alle donne, così invece è stata interpretata, e grazie a questa interpretazione sono intervenuti insomma alti burocrati come il Presidente del Senato, come il Presidente della Camera, come tutti insomma coloro i quali fanno parte in maniera trasversale dei partiti rappresentati nel Parlamento italiano, e si sono alzati, insomma hanno alzato un polverone grossissimo contro questo grande uomo di cultura e di musica. Ne volevo soltanto leggervi alcune invece dimostrazioni di affetto e di comprensione nei confronti dello stesso Franco Battiato, il quale peraltro dice in una nota lasciatemi tranquillo, ne parleremo tra qualche giorno, vengo da un tour massacrante. L'unica dichiarazione che lui ha rilasciato è l'ormai ex assessore al turismo Franco Battiato, rilasciato ieri pomeriggio durante una trasmissione radiofonica dopo che il presidente della regione Rosario Crocetta ha tolto l'incarico al cantautore Battiato. Ieri è tornato in Sicilia da Bruxelles, dove ha partecipato a una conferenza nel corso della quale aveva parlato di Troia. Ecco, adesso l'ho dovuta leggere, insomma, l'ho detto, nel Parlamento italiano. Frase che ha innescato un vespaio di polemiche. Il cantautore è partito nella primissima mattinata della città belga per fare scalo a Roma e poi dirigersi a Catania. Per lui nessuna tappa a Palermo e nessun incontro col governatore, col quale si è sentito solamente telefonicamente. Crocetta invece ha incontrato i dirigenti dell'assessorato, dove è arrivato nel pomeriggio il decreto di revoca dell'incarico a Battiato. Beh, come sentite, insomma, c'è stato questo frainteso. Lui si scusa dicendo che questo termine era rivolto anche ai signori uomini. Peraltro vi stavo dicendo, vi leggerò alcuni nomi di persone che hanno scritto su alcuni quotidiani dando ragione allo stesso Battiato. Uno tra questi è una certa Gina, grazie maestro, ha detto quello che penso è quello che penso da anni, anzi sei stato tenero, a chi brucia vuol dire che hai toccato nervi scoperti, bravo Franco. Un altro, un certo Alberto Battiato, ha semplicemente confermato il pensiero di milioni di italiani, forse il termine zoccola avrebbe meglio colto l'assenza. Un altro Lino come direbbe Caterina Caselli, la verità ti fa male, lo so, visto gli ultimi eventi non c'è proprio da stupirsi. Insomma, ci sono tantissime altre note a favore dello stesso Battiato. Certo, si poteva evitare intanto di togliere la delega e poi da parte dei parlamentari, visto il casotto che hanno combinato in questi 20 anni. Insomma, non sono scevri dall'essere non chiamati con quei termini, ma forse con termini peggiori. Però noi ci fermiamo qui ed io do il mio massimo appoggio al grande maestro Battiato, che comunque è un'icona nella cultura musicale in the world, nel mondo, e quindi, essendo poi siciliano, sono ancora più fiero e orgoglioso. Detto questo, bisogna ringraziare anche, stiamo parlando di uno sponsor, ci sono sempre problemi di salute in giro, chi con lo stomaco, chi con le braccia, chi si fa male, insomma abbiamo sempre problemi nel quotidiano. Tra questi problemi, ahimè, subentrano i denti, che è la parte importante per la nostra prima digestione, perché dicono i dentisti, la prima digestione arriva in, si fa in bocca, quindi bisogna avere una dentiera abbastanza, un apparato dentario abbastanza robusto, insomma sano, capace di masticare bene per poi digerire meglio. Allora, se ci sono problemi di denti, bisogna rivolgersi alla dottoressa Domizia Di Fazio, perché lei è specializzata in ortodonzia, ma ha uno studio anche di odontoiatria, dove lo trovate in via Sant'Anna 8 bis. Mi raccomando, pensate che una laurea nello specifico non sono tanti a poterselo permettere. Invece la dottoressa Domizia Di Fazio, vi diceva, a Castelbuono, anche sabato se volete, in via Sant'Anna 8 bis, perché è specializzata in ortodonzia, e se andate capirete di cosa stiamo parlando. Ma c'è anche lo studio associato di odontoiatria, dottoressa Domizia Di Fazio a Castelbuono. Nel periodo primaverile si cominciano a fare dei lavori in campagna, allora vi servono i motosega, vi servono i motozappa, oppure i tubi per l'irrigazione, oppure le stufe, si possono anche comprare di questo periodo, perché no, li accantoniamo in vista del prossimo autunno-inverno. Per esempio, sulle stufe a pellet o con legna, pensate, c'è l'abbattimento del 50%, ma questo fino al 30 giugno. Le stufe sono di marca La Nordica, Extraflame, ecco, è un po' difficile, ma entro il 30 giugno, comprando queste stufe, avete l'abbattimento ben del 50%. Le motoseghe poi sono delle alpine, insomma, voglio dire, sono di tutto riguardo. Oppure potete comprare nelle motozappe, che sono nella Forte, o altre marche se preferite, e i prezzi, credetemi, sono molto accessibili. Per l'irrigazione, poi, impianti a goccia, tubi di irrigazione o ad ala, gocciolante, questo è importante, perché non dovete stare lì col tubo ad innaffiare a destra e a manca e perdere delle ore che potete dedicare in campagna per altre cose. Poi che vi devo dire, la raccorderia, insomma, lì troverete tutti questi pezzi di ricambio. La raccorderia è importante, ma di cosa vi sto parlando? Un'azienda leader nel settore, Salamone Genovese SNC, non Genovese il nostro fonico, no, è un'altra Genovese. Vi do le informazioni per potervi mettervi in contatto con l'azienda, info@salgen.it, oppure www.salgen.it, e lì capirete, insomma, di cosa stiamo parlando. Tra le altre cose, insomma, vi voglio dire che c'è anche, per il tempo libero e perché per potervi divertire e rilassare in vista della primavera, c'è il cross e mini cross, è tutto importante, insomma, in questi tempi, rilassarsi un pochino e non guardare sempre il portafoglio, che va sempre con sempre meno soldi. Lo trovate in via Roma 75, il numero di fax o telefono è 091 89 91 350, ripeto 091 89 91 350. Salamone Genovese, tutto quello che serve per la vostra campagna, anche l'utensilia come le falci, i coltelli, le forbici. Queste sono cose, insomma, che vi trovate con facilità, ma le cose più importanti, insomma, sono i quad per il tempo libero, e poi i cross e i mini cross, e poi ancora, vi dicevo, i motozappa, i motosega, i decespugliatori dell'Alpina, che sono straordinari. Lo trovate in via Roma 75 a Cerda, naturalmente. Telefono, ripeto, 091 89 91 350. Se invece volete mangiare un buon pesce, non dovete fare altro che andare a Perito Ittica del Mare, il meglio del mare. Perché? Perché trovate le spigole, le orate, i calamari, l'insalata di mare già pronta da portare a casa, i sughi pronti, ragazzi, con pezzi di pesce spada, il finocchietto, i pinoli, oppure le sarde. Il vostro moglie non deve arrovellarsi il cervello per prepararvi il primo, è già pronto. Ma oltretutto ci sono ben 3 punti vendita, 2 a Cefalù e 1 a Castelbuono. A Castelbuono lo trovate in via E dunque via Vittorio Emanuele 4, mentre al Cefaluto trovate in piazza Cristoforo Colombo 8, oppure l'ambulante che fa parte sempre della stessa azienda di Perito Ittica del Mare, lo trovate all'angolo di via San Pasquale. Cos'altro dirvi? Comprate del pesce, compratelo buono, e soltanto Perito Ittica del Mare, Ittica il meglio del mare, può darvi le migliori indicazioni e il miglior pesce in assoluto. Questo per quanto attiene la gastronomia. Invece, se volete arredare la vostra casa con gusto, oltre a trovare tutta l'utensileria che serve, dalle lampadine alle batterie, tutto quello che serve per una casa, ma trovate soprattutto dei lampadari, pensate, con lo sconto del 40%, di ottima fattura, ma sicuramente belli da vedere e da godersi nella propria casa. Sto parlando di Spaldino, Easy Chic, in via Fonte di Camargia, via Geraci, a Castelbuono, 0921 67 23 74, e buon acquisti. Allora, sono 52, prima di chiudere questa manifestazione, prima di dare linea alla regia, c'è un ultimissimo sponsor da dire. Siamo nelle feste pasquali, quindi chi vuole, soprattutto chi vive in città, non ha dove andare, non possiede campagna, non ha amici che ti invitano, bene, non c'è problema, bisogna prendere la macchina, andare vicino a Mistretta. Poco prima di arrivare a Mistretta c'è l'agroturismo La Collina del Nibbio a 4 stelle, pensate, lì è tutto naturale, mangerete tutta roba genuina prodotta in loco. In estate poi c'è la possibilità della piscina, anche di fare un po' di camminate a cavallo, e poi di giocare anche a golf se volete. Piatti particolari tipici, beh ragazzi, naturalmente si fa su prenotazione. Vi ricordo allora l'azienda, che si chiama La Collina del Nibbio, lo trovate prima di arrivare a Mistretta, vi do adesso l'esatta indicazione, eccolo qua, in contrada Pantano Policariti, Reitano, Messina. Passate la cittadina, il paesino di Reitano, a pochi metri, c'è a pochi chilometri, 1-2 chilometri massimo, imboccate la strada che la trovate sulla vostra, sono le insegne, e arrivate in questa bella azienda agroturistica che vi offre peraltro la possibilità di pernottare in comodissime stanze super accessoriate. I primi piatti, vi dicevo, i piatti per tradizionali, insomma, intanto c'è il suino nero dei Nebrodi, che è qualcosa di straordinario, poi ci sono i caldelloni di carne, oppure i maccheroni al ragù, e poi il castrato, ma soprattutto vi consiglio questo suino nero che è favoloso, e poi i dolcini che sono veramente particolari, con cocco e ricotta, io li ho assaggiati l'altra sera e sono veramente meravigliosi. La Grinolibia, azienda agroturistica, sorge a Reitano in provincia di Messina, alle porte del Parco dei Nebrodi, quindi pensate che posto sereno e tranquillo da poter vivere una Pasqua e una Pasquetta all'insegna della Santa Pasqua e del sano divertimento. Bene, io avrei detto già tutto, volevo ringraziare tutti quanti voi per essere stati con noi, per averci ascoltato, e volevo ringraziare il sindaco di Gangi per essere stato presente qui con noi, aver parlato di tutti i problemi che hanno oggi i comuni. E cos'altro dirvi? Vi auguro a tutti quanti voi una santissima Pasqua, una serenissima Pasquetta, divertitevi, non pensate ai problemi, non pensate alle malattie, insomma alle cose che nel quotidiano ci disturbano, ma ci consentono anche di vivere in un modo o nell'altro, di non annoiarci quantomeno. Ringrazio l'amico genovese alla console e agli sponsor, naturalmente, una buona Pasqua anche a loro, e che altro dirvi? L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. La replica domenica per le 9.30 circa. E un bacione a tutti, ancora buona Pasqua, a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo.